e iniziano duri scontri con le cosiddette forze dell'ordine, che avevano circondato il carcere e tentavano di occupare militarmente l'intero quartiere. Questo perché chi era dentro, magari il giorno prima, era fuori, o chi era fuori, il giorno dopo, sarebbe entrato dentro. Quindi la difesa della rivolta carceraria fu una cosa spontanea e naturale. I detenuti riescono ad ottenere che i feriti vengano portati via alla presenza di un magistrato, impedendo ai secondini di toccarli, e pongono le loro condizioni. 1. Una tregua di 3 giorni in cui nella sezione da cui è partita la rivolta dovevano rimanere solo i detenuti senza i secondini. 2. Niente trasferimenti e punizioni. 3. Inchiesta sui reati commessi dalle autorità giudiziarie. Le autorità carcerarie inizialmente accettano le condizioni poste, ma poi non le rispettano. Altre rivolte e proteste avvengono in altre carceri italiane, a San Vittore, a Mantova, a Rebibbia, a Torino, a Fossano, a Volterra, a Alessandria, a Verona. La rivolta e l'assassinio di Giancarlo diventano una canzone. Le Murate, del collettivo Vittor Jara, una struttura musicale e teatrale di sostegno al movimento. Ascoltiamola. Febbraio e 74 febbraio sparano i poliziotti, sparano alle murate, muore Giancarlo del padrone. E non si respira più e le barricate, tutti lanciamo sassi contro gli scudi del potere. E il tetto delle murate è pieno di carcerati, tanti a bandiera rossa scoppiano i candelotti, comincia ormai la caccia al rosso. E non se ne può più, e il fiato ti va via, carica i celerini ma rimaniamo ai nostri. Canterà presto il fucile. Giustizia sarà fatta fuori e nelle prigioni, contro padroni e questori suonerà la giusta carica della giustizia proletaria. Più e febbraio, ma nella fuga compagno, nella paura compagno, come nella lotta compagno, resterò sempre a fianco a te. Il quartiere di Santa Croce è nel 1974 ancora un quartiere popolare. E qui erano situati anche tre carceri di Firenze, quello di Santa Teresa in via della Mattonaia, il femminile Santa Verdiana in via dell'Agnolo e il carcere giudiziario delle Murate in via Ghibellina. Quest'ultimo in particolare, essendo un carcere per detenuti in attesa di processo, anche per la durata più breve della detenzione, aveva un rapporto molto stretto con il quartiere e molte delle famiglie che vi abitavano avevano un parente o un amico alle Murate. A Santa Croce viveva, accanto a studenti fuori sede artigiani, quel proletariato extralegale che campa di espedienti, dai furti negli appartamenti e nelle ville al lavoro in bisca. Condizioni di vita ai margini della malavita. Il carcere era per loro una tappa obbligata, di passaggio, un punto di riferimento delle loro esistenze. Gente che entra ed esce dal carcere, porta fuori la comunicazione e i saluti e si avvicina al movimento perché le lotte carcerarie l'hanno in qualche modo politicizzata. Anche la composizione sociale dell'industria del crimine è diversa. A Firenze non esistono, come nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova, le cosiddette batterie di rapinatori. Ci sono gli artigiani della rapina, si incontrano dei veri e propri artisti dello scasso. La rivolta delle Murate è sostenuta dall'esterno. Gli stracci con il sangue di Giancarlo e dei feriti vengono gettati dai tetti e diventano gli striscioni con cui si manifesta sotto il carcere, stringendolo d'assedio. Una domenica d'accani, di rabbia infinita. Lotta continua dà l'indicazione di abbandonare l'assedio al carcere, ma nemmeno i suoi militanti la seguono. È la conferma di quello che si sapeva già da tempo. Con le rivolte in carcere del luglio 73, l'avanguardia dei detenuti aveva rotto con la commissione carceri di lotta continua. Dopo anni di lavoro comune, sintetizzati dall'esperienza e anche dal libro Liberare tutti i dannati della terra. Un militante di lotta continua racconta in proposito. Diventò famosa la storia del servizio d'ordine di lotta continua. Cioè lotta continua a quell'epoca aveva iniziato la sua svolta istituzionale e allora il segretario di allora, tale Leonardo Tozzi, detto il Beria, in piazza ordinò al servizio d'ordine di abbandonare la piazza, insomma di abbandonare la strada dove era stato schierato. È questa una storia che è stata rivangata per anni e anni accusando appunto questo Tozzi di questa vicenda. Mentre invece appunto emersero un po' di giovani. Forse quella si può proprio dire che fu la prima espressione dell'autonomia. Si stava formando appunto una leva di gente giovane che non aveva trovato alloggio in nessuno dei gruppi allora esistenti. Un'altra testimonianza aggiunge. Le Murate rappresentano una scelta precisa, una spaccatura più consistente, è forse la prima spaccatura massiccia all'interno dei gruppi, ma porterà anche lotta continua a una resa dei conti interna, ad un avvicendamento di segreteria di lì a un anno e mezzo. Riporto un'altra testimonianza del racconto di quella serata. C'era gente che si ritrovava in Santa Croce. Ci siamo trovati fianco a fianco negli scontri con la polizia. La sera, quando eravamo in un attimo di relax, relax tra virgolette, ci siamo trovati tutti in questa piazza e lì abbiamo conosciuto gli altri. Alcuni venivano da lotta continua, altri da altre situazioni, anche gente che non c'entrava niente con la politica. E lì è venuto fuori questo gruppo, abbastanza grande, che era un punto di riferimento enorme. Era una cosa che stava fermentando e le Murate sono state il detonatore rispetto a quella situazione specifica. Riporto un'altra testimonianza che dà la dimensione di quella rivolta. Perché le rivolte dei detenuti in tutta Italia ci sono state, ma una rivolta con l'appoggio degli scontri fuori, in pochi altri posti c'è stata. Non è che c'è stato un corteino, lì era un quartiere in cui proprio la gente buttava di tutto dalle finestre, era proprio la rivolta popolare. Io andavo sempre a giocare ai giardini in Piazza d'Azeglio, avevo 12 anni e l'ho vista proprio così. Al giardino di Piazza d'Azeglio sei proprio vicino a Santa Croce e veniva fuori il finimondo. Quella fu una lotta proprio popolare, io l'accomuno sempre alla rivolta di San Basilio. Lì un po' differente perché c'erano tante case occupate, però è una battaglia questa qui che è stata importante. Ed ora sentiamoci liberare tutti del canzoniere Pisano. Ci sono tanti compagni di cui siamo privati. Perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari, si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto liberare tutti. Vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Bastano le galere per tenerci chiusi, facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Compagni per la rivoluzione, liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Gli scontri per la rivolta delle Morate rappresentarono, insomma, uno spartiacque nella storia della sinistra extraparlamentare a Firenze negli anni 70. Fu a partire da questa esperienza che molti militanti delusi dalle linee politiche portate avanti dai gruppi maturarono la consapevolezza del loro numero e della loro forza, andando a saldarsi con quella componente cittadina che, pur non avendo mai militato in alcuna formazione, aveva sempre mantenuto una carica eversiva o comunque antisistema. All'interno delle prigioni, la politicizzazione anticapitalista era avvenuta con il passaggio dall'esperienza dell'esproprio singolo alla convinzione della necessità di espropriare tutta la classe degli sfruttatori. La coscienza di massa dei detenuti poneva il problema di un livello di organizzazione diverso da quello della denuncia e della lotta per la riforma dell'ordinamento carcerario. Il carcere doveva diventare base rossa per rompere i muri dell'isolamento con la società. Il tentativo di esercitare forme di contropotere vide, proprio a partire dalla rivolta delle murate di Firenze, straordinarie realizzazioni, come i colloqui aperti nel carcere di Perugia e la successiva accoglienza in reti di solidarietà per chi usciva o perché arrivava la fine pena o perché era riuscito ad evadere. Giancarlo Pagani, entrato alle murate per una rapina ad un orefice di Via degli Alfani, in un'udienza davanti al giudice, parlando a nome dei detenuti, affermerà: «Non sarà la condanna che mi darete a farmi sentire in torto. Non avendo nient'altro da dire, vi rammento che l'unica valida giustizia è quella proletaria». È evidente la politicizzazione che era avvenuta nel proletariato extralegale che abitava in Santa Croce e entrava e usciva dal carcere. Ed ora ascoltiamoci una canzone di Fabrizio De André, Don Raffaè. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E a centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, fornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papà, il bottone mi leggo giornale. Consiglio con Don Raffaè, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usando fa. Qua ricetta che ci ci ridendo, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un professore che Dio lo perdoni, un 30 ai rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usata fa. Qua ricetta cacci ci rinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usata fa. Ricetta di cicciolina, la compagna dice la precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, chi c'è là. Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che a maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccelle, gradito campario, voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicciolinella, compagni di cella precisa mamma. non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so patisciente per chi se per niente se tende nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe nusante, ma cattinte voi state a pagare, e pure chi state ci stanno spazzando. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. L'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chissà caffè. I partecipanti agli scontri parlano di una mobilitazione generale di tutto il quartiere, a cui parteciparono anche soggetti molto lontani dalle realtà politiche organizzate. Un militante di Lotta Continua che partecipò agli scontri racconta in un'intervista: «Perché ti sentivi forte, c'erano tutti, proprio tutti, i travestiti, i papponi. Era un quartiere così, Santa Croce, i ladri, i vecchi, quelli della Casa del Popolo Buonarroti. Lì aprivano, si scappava lì dentro, poi si riusciva, le case tutte aperte per far scappare la gente e poi richiudere i portoni. Tutto il quartiere veramente è sceso per strada, chi non scendeva buttava le cose dalla finestra per fare la barricata. Avevamo circondato, avevamo tentato di circondare il carcere, solo che da lì c'erano i viali e non era possibile. Invece dalla parte interna del quartiere avevamo circondato tutto il carcere, avevamo fatto dei falò per non far passare gli sbirri». Un altro compagno di Lotta Continua in un'intervista dice: «Perché a Santa Croce ci abitavano i proletari fiorentini? Ma ci abitavano, avevano preso casa lì spesso e volentieri anche i parenti e conoscenti di coloro che erano stati rinchiusi, magari da altre città, nel carcere delle murate. Tanto è vero che, per esempio, quelli che si diedero molto da fare furono i femminielli napoletani durante la rivolta del carcere, perché abitavano a Santa Croce. Ma non solo loro, anche la gente che normalmente ci viveva. Ci fu una cosa incredibile per me, ma per chiunque, nel senso che effettivamente la polizia fu bersagliata, mi ricordo, da vasi di fiori, ma da qualsiasi cosa, dalle finestre, e tutti ci facevano entrare negli androni dei palazzi dandoci il limone per resistere ai lacrimogeni sparati in quantità industriale. Ci fu una partecipazione molto consistente da parte della popolazione di Santa Croce. Gli studenti c'erano, ma questa era una rivolta di popolo contro questa prevaricazione, contro la polizia». Ed ora sentiamoci un altro pezzo del collettivo Vittor Jara, Santa Pazienza. Santa pazienza, sorella dell'ignoranza, pane dei poveri, ruffiana dei potenti, fumo negli occhi e figlia di obbedienza e madre della paura che chiamano speranza. A te chiediamo di continuare a trascinare il giogo, per imparare a sopportare, a stare sempre al gioco. Facci crepare come le bestie che portano al macello, senza capire, senza pensare, anche la morte può sembrare bella. Facci campar di niente, contenti del bastone, incatenati alla televisione, facci evadere dalla coscienza per annegare nel vasto mare della deficienza. Facci trovar nel male quel minimo di spazio che sempre resta per farci ancora sorridere, di quel che basta a non pensare che fan chinar la testa ed accettare il loro gioco. Santa pazienza, dacci una mano, lo sai che basta così poco. Santa pazienza, dacci una mano, lo sai che basta così poco. Gli scontri nella nottata continueranno durissimi, poi i rastrellamenti della polizia. Il quartiere rimarrà intossicato dai lacrimogeni. Alla fine degli scontri ci furono un arresto e 14 denunce. Per chi volesse approfondire, consigliamo la lettura di questi libri. Liberare tutti, i dannati della terra. Edizioni Lotta Continua, liberamente scaricabile da inventati.org. A cura di Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti, Gli Autonomi, le storie, le lotte, le teorie, volume primo, Derive a Prodi, in particolare il capitolo Autonomi a Firenze di Massimo Cervelli e Bruno Paladini. Inoltre potete trovare altri materiali sul sito archivioautonomia.it. Con questo si conclude anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!